La rete Aria Pesa, che è fatta da cittadini e associazioni più i comitati dei genitori, hanno fatto un campionamento in oltre il 70% delle scuole bolognesi, quindi con 250 campionatori, di questi 238 sono quelli che abbiamo diciamo, recuperato e analizzato, e sostanzialmente monitorando gli NO2. La maggior parte dei campionatori sono stati posti in prossimità delle scuole, poi ne abbiamo posti altri in qualche modo anche per poter fare dei raffronti con la precedente campagna, ma in uno studio successivo. Qui presentiamo il lavoro fatto sulle scuole, dove ci sono appunto oltre 200 campionatori, in cui si evince che c'è un 10% dei campionatori che ha valori simili o superiori a quelli Delle di Porta centrali. San Felice. Quindi superiori significa che noi abbiamo diviso i campionatori in 6 fasce: come Porta San Felice, peggio di Porta San Felice, intorno al limite di legge, peggio dei Giardini di Margherita, meglio dei Giardini di Margherita. Queste sono le 6 fasce per rendere divise in colori, e così abbiamo descritto un po' i campionatori. Circa il 10% dei campionatori è stato come o peggio di Porta San Felice, e un ulteriore 30% ha dato valori intorno al limite di legge. Abbiamo cercato di capire quanti erano i bambini esposti in termini numerici, e abbiamo verificato che ci sono insomma oltre 10.000 bambini e ragazzi, quindi studenti, esposti in queste condizioni. In particolare ce ne sono oltre 4.000 fra nidi, infanzie primarie, quindi molto piccoli. Avete monitorato l'azoto, quindi Abbiamo monitorato il biossido di azoto che biossido deriva dal traffico veicolare. Allora, la CO2 ha un serra. effetto serra, che però ha non un effetto locale, ha un effetto serra nel sistema complessivo, no? Nella media della concentrazione, mentre l'NO2 è un inquinante acuto locale, per cui ha senso fare dei campionamenti per capire qual è la distribuzione, da dove viene emesso, quali sono le zone critiche. Mentre la CO2 ha un effetto sul sistema climatico, l'NO2 ha un effetto sulla salute diretta. Non è l'unico, ci sono anche il particolato, però l'NO2 è critico per diversi aspetti. Innanzitutto è quello più facilmente legabile al traffico veicolare, poi è quello che risente maggiormente della posizione, e quindi ha senso mapparlo, mentre i PM10, per esempio, sono distribuiti, i PM2,5 sono distribuiti più equamente. E poi ha un altro aspetto, di fatto è critico perché una parte dell'NO2 poi va a formare particolato secondario, quindi ha effetti anche sul particolato, e d'estate va a formare, entra nel ciclo di formazione dell'ozono, Dell'ozono. che è l'altro degli inquinanti critico in questa città. Il periodo preso in considerazione, quello fra ottobre e novembre, in cui non c'erano sostanzialmente emissioni derivanti da fonti di produzione di energia per riscaldamento domestico, e quindi questi dati sono effettivamente molto molto significativi rispetto al traffico veicolare. Quindi le nostre scelte di mobilità si ripercuote sulla salute dei nostri figli, in particolare si ripercuote sulla salute di quei ragazzi che abbiamo visto manifestare venerdì, e che abbiamo applaudito, e che però, mentre li applaudiamo, li intossichiamo con le nostre emissioni. Sono dati molto brutti, dati pericolosi per la salute dei cittadini. In effetti ci sono anche statistiche che vedono il tasso di mortalità molto elevato. Come comitato avete già delle proposte, degli incontri da fare con la pubblica amministrazione? Sì, noi abbiamo innanzitutto un'assemblea con i genitori il 21 in via Andreini, che è una cosa importante perché questi evidentemente sono dati indicativi, non sono dati, come dire, che rispondono a degli standard analitici, però hanno una buona, diciamo, affidabilità, soprattutto nei valori complessivi, no? Di percentuali che vi stavo raccontando, non magari sul singolo campionatore in sé. Ci piacerebbe discutere con i genitori, ci piacerebbe che le soluzioni in parte arrivassero anche dalla loro presa di coscienza, dalla capacità di decidere intorno alla propria scuola come modificare sia i comportamenti che anche le scelte pubbliche dell'amministrazione, in modo poi da andare a incontrare l'amministrazione con un sistema di proposte che deriva dal basso e dalla presenza e dalla partecipazione dei cittadini che sono direttamente coinvolti.